236. Costolette d'agnello vestite. Prendete costolette d'agnello di carne fina, denudate l'osso della costola, schiacciatele, pareggiatele, cuocetele così naturali alla sauté col burro, conditele calde con sale e pepe e mettetele da parte. Fate una balsamella sodettina e nella medesima gettate prosciutto e lingua salata a piccolissimi dadi, un pizzico di parmigiano, una presa di noce moscata e un tartufo a fettine, oppure funghi secchi rammolliti e tritati. E mettete anche questo composto da parte perché diaci bene. Fate una pasta sfoglia. Numero 154, proporzionata alla quantità delle costolette, e con la medesima avvolgetele una per una, lasciando fuori l'osso della costola, ma prima spalmatele da una parte e dall'altra abbondantemente col detto composto. Quando le avrete chiuse, doratele col rosso d'uovo. Collocatele ritte intorno all'orlo di una teglia. Cuocetele nel forno da campagna e servitele calde. Saranno generalmente aggradite e tenute in conto di piatto fine. La pasta sfoglia potrete tagliarla con un modellino di carta, che così l'involucro vi verrà più preciso, per più pulizia ed eleganza. Prima di mandarle in tavola, fasciate l'estremità di ogni costola con carta bianca smerlata.